9 in punto. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori e benvenuti a 9 in punto. Oggi, come si diceva, è la giornata che Radio 24 ha deciso di dedicare alla violenza contro le donne. Naturalmente non alla violenza contro le donne, contro la violenza sulle donne, come evidente e palese. C'è già qualcuno che scrive usando l'hashtag che abbiamo scelto per oggi, fermiamo questa strage. E già chi ci scrive su Facebook che contesta i dati sul cosiddetto femminicidio, ossia l'uccisione delle donne. E però voglio chiarire bene che il punto non è questo, perché il femminicidio, il cosiddetto femminicidio, è la punta di un iceberg, è la punta di un iceberg di violenze che magari durano per tutta una vita, di donne picchiate, maltrattate, alle quali vengono dati calci, pugni, schiaffi. Tra poco sentiremo anche delle testimonianze su questo, senza contare tutto quel magma difficilmente distinguibile e però possente di violenza psicologica, di sopraffazione psicologica, di volontà di dominio, che fa parte di tutto questo, che fa parte di questo clima culturale. Allora, naturalmente quello che ci chiederemo oggi, tra le altre cose, è se serve davvero una legge contro tutto questo. Se serve, che serve un cambiamento culturale, non c'è alcun dubbio. Se serve una legge, se servono soldi, per esempio, per i centri antiviolenza, ce ne sono alcuni. I dati sono riportati in qualche cronaca delle ultime settimane, che sopravvivono con 13 euro al giorno, centri antiviolenza per le donne che sopravvivono con 13 euro al giorno, 10.000 euro all'anno. Naturalmente il lavoro che si può fare con questo è molto limitato. Ecco, proprio per dire che il punto non è quanti femminicidi ci siano, anche se naturalmente è importante perché, ripeto, è la punta dell'iceberg, voglio partire con una storia che per il momento ha un lieto fine, naturalmente, e speriamo che rimanga tale. Saluto la signora Lucia Filanino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, signora Filanino, vorrei sentire un po' la sua storia. Suo marito, o forse sarebbe più corretto dire adesso il suo ex marito. Infatti, sì, ha detto bene. Quando iniziò a picchiarla? Subito dopo 3 mesi che ci siamo sposati, che io mi sono sposata il 27 luglio del 91, la data del matrimonio, e la data che lui iniziò a picchiare fu il 15 settembre, il giorno di San Addolorato. Ricordo bene perché abbiamo anche una addolorata in famiglia e quindi ricordo che era di domenica, mangiamo da mia madre con una banale discussione, quando tornammo a casa lo picchiò. Quanto sono andate avanti queste violenze? Che tipo di violenze erano? E purtroppo tante, sì, a distanza di 2 mesi, 6 mesi, dipendeva. Sempre con delle stupide accuse, delle stupide anche, che so, dei litigi con i bambini, che abbiamo 2 figli, sempre con calci, pugni, schiaffi, calci nella pancia, cioè di tutto e di più purtroppo. Io, anche se mi difendevo, purtroppo non potevo difendere, perché più mi difendevo più lui mi picchiava. Vorrei capire questo, io vorrei cercare di capire con lei, se possibile, anche la dimensione psicologica, no? Nella quale avveniva tutto questo. Vorrei capire se lei si è mai data una spiegazione, cioè se lo ha interpretato come il comportamento di un uomo malato o se... Sicuramente, sì, secondo me sì. Io gliel'ho chiesto di curarsi, che gli sarei stato anche accanto se lui accettasse questa accusa. Non è facile, infatti non l'ha accettata, mi diceva sempre che la pazza ero io. Mi faceva sentire sempre la sbagliata a me, tutto ciò che non andava bene era colpa mia. E lei si sentiva così a tutti gli effetti? No, sinceramente, era lui che mi faceva sentire, però io poi, non parlando con nessuno, perché non ho mai detto niente a nessuno, solo nel 2009 cioè, è uscita fuori questa accusa, che tra l'altro è durata 18 anni, dal 91 che io mi sono sposata. E quindi, non parlando con nessuno, non sapevo come... Cioè, io dentro di me sapevo che non era colpa mia, non poteva essere colpa mia. anche perché lui diceva sempre che lui non sapeva parlare con le mani, sapeva parlare con le mani, non sapeva parlare con la bocca, sapeva parlare con le mani. E come mai in questi 18 anni non ha mai pensato a denunciare, a raccontare qualcosa? Come mai? Per i figli, assolutamente per i figli. Chissà cambiasse, avevo una speranza, chissà cambiasse, ora faccio così, chissà. Lui cambia, ancora l'altra volta è vero, sono stata io che ho sbagliato, facciamo di quest'altro modo, andava bene per un po', però poi stavamo di nuovo punti a capo, solo con la speranza che lui cambiasse. I figli tutto questo lo vedevano, hanno assistevano visto, a tutto sì, questo? Hanno visto, sì. Mia figlia apriva la porta e usciva, diceva mamma io esco con le amiche. Mio figlio si metteva sul lettino della stanzetta con gli auricolari nelle orecchie, per non ascoltare le mie grida e i miei pianti. Il mio figlio era piccolo, aveva 9-8 anni. Ricordo una volta, aveva 10 anni, faceva la quinta elementare, a scuola studiarono i diritti delle donne. E quando venne all'1:30 da scuola mi chiese, mamma, papà ti ha picchiato di nuovo? No, perché? Dissi, no, perché a scuola oggi la maestra ha detto che non si picchiano le donne. Ce lo dobbiamo dire a papà che non lo deve fare più. Io li tranquillizzavo dicendo sì, non ti preoccupare mamma, papà ha promesso che non lo farà più, anche perché lui lo diceva così il giorno dopo, perché lui il giorno dopo non ricordava quasi niente, o per lui era tutto scondato, non lo so, la mattina anzi prima che se ne andasse a lavoro lui mi veniva a salutare nel letto, mi veniva a dare il bacetto come di solito aveva la sua abitudine di fare per salutarsi, cioè che andava a lavoro, cioè per lui era tutto normale. Tu quando tornava all'orario di pranzo diceva è ancora arrabbiata con me, sei, e che cosa, che non ti dici niente ieri sera. E poi appunto nel 2009 lei ha deciso di denunciare. Suo marito le ha detto che la vuole ammazzare? Sì, e disse che quando finirà tutto che non ci saranno gli avvocati, perché ora lui diciamo che ha paura, diciamo così, che ci sono questi avvocati, anche perché c'è la causa la penale, c'è la causa quella civile per il divorzio, insomma sono circondata dagli avvocati, quindi lui penso che avrà paura ora di queste accuse, mi ha sempre detto che quando finirà tutto mi ammazzerà quando non ci saranno più gli avvocati. E lei ha paura? Sinceramente non più, no, perché mi sento abbastanza forte, mi sento rassicurato con i miei avvocati, con tutte le persone che mi circondano, no. Dunque, un ringraziamento, la ringraziamo la signora Lucia Filanino e ringraziamo l'associazione Anteas che ci ha messo in contatto con la signora per poter raccontare la sua storia e potervi dare già una misura della situazione con questa storia. Saluto gli altri nostri ospiti, le altre nostre ospiti in realtà, allora innanzitutto chi sentiamo da più lontano, Veronica De Laurentiis, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno. Buongiorno, in diretta da Los Angeles, sì, vero? Sì. Diretta da Los Angeles, che ora è? 12:30, che ora è? Sì, 12:20. Vabbè, non drammatico come se fosse, diciamo, sull'altra, sull'altra costa, diciamo. Autrice del libro Rivoglio la mia vita, che racconta appunto delle violenze da parte dell'ex marito. Saluto anche Giusy Fasano, giornalista del Corriere della Sera, tra le autrici e curatrici del blog La 27ª Ora e di un altro libro, Questo non è amore. Buongiorno Giusy, benvenuta. Buongiorno a voi. Saluto anche Patrizia Giantedeschi, responsabile area clinica del Centro Veneto Progetti Donna. Buongiorno Giantedeschi. Buongiorno. Allora, io tra poco andrò dalla De Laurentiis perché una storia l'abbiamo già sentita, però voglio partire da Giusy Fasano proprio per capire la dimensione del problema e soprattutto quali possono essere le vie, come dire, per migliorare la situazione. Ci dite i numeri riguarda una minoranza della popolazione. Guardate, gli ultimi dati disponibili in realtà sono quelli che abbiamo dell'Istat del 2006 e quindi diciamo sull'attendibilità dell'Istat dal punto di vista statistico non lo so, non mi sento ancora di dire che sbaglino. Un'indagine secondo la quale Le donne tra i 16 e i 70 anni che dichiarano di essere state vittime di violenza fisica o sessuale almeno una volta nella vita sono 6.743.000, ossia il 31,9% della popolazione. Quindi, se, sì, in tutta sincerità, della popolazione femminile, naturalmente, in tutta sincerità, non mi sembra una minoranza. Giusy Fasano. Hai ragione, ci sono dei rapporti anche un po' più recenti in realtà, ti dico che c'è il rapporto sulla criminalità in Italia, quindi è una roba un po' più focalizzata, ti dico solo questo dato, che mentre gli omicidi in Italia sono calati in generale, parlo di omicidi di uomini e donne in generale, del 57% dal 92 mi pare al 2006, i dati sono più o meno di quegli anni lì. Quelli che sui cosiddetti passionali, e poi scopriremo che passionali non è la definizione diciamo più felice, sono cresciuti del 98%, cioè sono passati da 97 a 192 nel periodo preso in considerazione dal rapporto sulla criminalità. Detto questo, al di là dei numeri sui quali in realtà c'è una gran confusione, perché poi si parla di femminicidi e magari invece sono omicidi anche di altro genere, bisogna capire bene che cosa significa femminicidio e perché si dice femminicidio, e bisogna anche capire che, per esempio, a partire proprio da questa storia dei dati, ci vorrebbe un osservatorio reale. Per esempio, tu chiedevi quali sono i passi da fare. Allora, per esempio, cominciamo dai dati, cominciamo a capire quant'è realmente il fenomeno con dei dati standardizzati, comparabili, quindi con un osservatorio reale. Poi cominciamo a capire quanto è possibile fare o non fare qualcosa da parte delle vittime, delle donne. Per esempio, l'articolo della legge sullo stalking, una legge che oramai da qualche anno è stata provate, quindi abbiamo anche idea di come funziona e se funziona. Perché una donna perseguitata deve essere lei a fare una querela? Perché la legge e il delitto è punito a querela della persona offesa? Si potrebbe farne una punizione a querela d'ufficio, per ufficio, quindi si potrebbe essere lo stesso magistrato a prendere l'iniziativa. È una delle tante cose richieste. Parlavi dei centri antiviolenza, per esempio, anche quelli, aiutarli non è una cosa secondaria, perché avere delle risorse per poter aiutare le donne, per esempio, a trovare le case quando escono dalle proprie famiglie, è difficile uscire da una famiglia magari senza un aiuto economico, senza avere un lavoro, avendo dei figli, proprio in punta di piedi andarsene una notte, andarsene un giorno qualsiasi e prendere quello che si può, mettere in valigia quello che si può, e se il centro antiviolenza ti aiuta deve avere a sua volta la possibilità di farlo, e questo diciamo in via proprio generale. Dopodiché di questo problema si sta parlando molto, nel 2012 si è parlato tantissimo, e questo è l'effetto del nostro non solo Corriere ovviamente, del tam tam generale. Io spero che questo si continui a fare, come stai facendo anche tu in questo momento. Allora, abbiamo una pausa, siamo lievemente in ritardo rispetto ai nostri soliti tempi, perché come avete sentito ce ne occupiamo in questa giornata anche nei giornali radio, quindi c'è stato uno spazio aggiuntivo alla fine del giornale radio dedicato proprio a questo. Abbiamo una breve pausa, poi ritorniamo e ripartiamo da Veronica De Laurentiis, perché questo è un punto centrale. C'è anche qualcuno che ci scrive di sì, ma è frutto di una cultura aperte virgolette, sottosviluppata, insomma, o comunque no, di scarsa cultura, di un mondo che ormai sta svanendo, non esiste più. E invece la storia della signora De Laurentiis è la chiara dimostrazione che questi problemi, queste questioni, questi atti di violenza esistono anche in una parte di mondo, diciamo, di livelli culturali più elevati. Avviene. 9 in punto. Dobbiamo star compatti e mi dispiace che mi prenderei 2 ore per questa trasmissione. Ci scrive, e sono contento che lo faccia un uomo, scrive su Twitter Maurizio Paro, con l'hashtag fermiamo questa strage. Trovo assurdo stare a disquisire sui numeri, già una vittima giustificherebbe la ricerca di rimedi. Sono perfettamente d'accordo. Veronica De Laurentiis, dunque, io partirei naturalmente dalla sua di storia. Sì, guarda Simone, prima vorrei rispondere alla persona che ha scritto prima che ti ha scritto dicendo che la violenza non, voglio dire che la violenza non ha nessun tipo di confini, né di geografia, né di cultura, né di strato sociale. Può accadere in qualunque famiglia, è una questione di, viene tramandata da famiglia a famiglia. Io vorrei raccontare quello che mi è successo dopo aver sposato il mio ex marito. Durante il viaggio di nozze, io ero già incinta di 3 mesi, abbiamo avuto una litigata, eravamo in Giappone, e lui in quel momento si è trasformato in un mostro. E che cosa ha fatto? Ha cominciato a urlare, mi ha cominciato a tirare addosso gli oggetti che erano in camera da letto, e io ho reagito cercando di tranquillizzarlo, cercando di capire perché, e pensando sempre che in fondo la colpa era mia, perché ero cresciuta in una famiglia che mi era sempre stato detto quello che dovevo fare, che quindi non credevo in me stessa, la mia stima non era forte di me stessa, e quindi sono caduta in questa, ero distrutta dal fatto che lui si fosse arrabbiato e che fosse diventato all'improvviso una persona che io non conoscevo. E in quel momento lì cosa ha fatto? Mi ha dato uno schiaffo. Io invece di reagire sono rimasta in quella camera da letto a guardare il muro bianco tutto il giorno. Lui è andato al suo meeting, è tornato, e quando è tornato io gli ho detto: se tu mi ritocchi un'altra volta, io chiedo il divorzio. Lui si è messo a piangere, lui mi ha detto tutte le cose che questi uomini dicono: sei la donna della mia vita, non posso vivere senza di te, e io ci ho creduto. E non ho reagito e non l'ho lasciato, sono rimasta. E ho passato 15 anni con quest'uomo, sapendo chi era, ma non avendo la possibilità di andarmene, come ha detto Lucia, perché c'avevo i figli, perché pensavo che cambiasse, perché pensavo che io potevo cambiare un'altra persona, e invece possiamo solo cambiare noi stessi. Allora, poi verremo, perché da questo poi sono partite anche delle iniziative, verremo anche a quello, oltre al libro, lo ricordo, si chiama Rivoglio la mia vita, che narra proprio di questa storia. Patrizia... È importante uscire dal silenzio, è importante raccontare queste storie, perché è l'unica maniera per fermare le violenze, è parlare e appunto denunciare, chiedere aiuto, educarsi. Educarsi. Patrizia Zantedeschi, responsabile area clinica Centro Veneto Progetti Donna, scusi se l'ho fatta attendere, oggi è una giornata un po' così, insomma, naturalmente. Ho ascoltato con molto interesse. Bene, bene, sono contento. Allora, dal vostro punto di vista, da chi naturalmente agisce sul territorio, le storie le abbiamo sentite naturalmente, vorrei capire se lei ci può dare innanzitutto un po' di polso dal territorio di estensione del fenomeno, perché si ragiona, fin dall'inizio abbiamo iniziato a ragionare molto sui numeri di tutto questo, naturalmente voglio dire, non è che con lei facciamo un'indagine statistica sulla cosa, però insomma avere un po' di polso dal territorio da una parte, dall'altra parte capire quali sono i problemi. Si parlava di fondi, lo dicevo in apertura, ci sono centri antiviolenza che addirittura non sopravvivono con zero soldi, altri che con appunto 13 euro al giorno vanno avanti, insomma. Sì, allora intanto questa cosa dei numeri, che quando parliamo di violenza sulle donne è il primo dato che ci viene chiesto, il primo dato che si utilizza per capire di che cosa stiamo parlando. Questa ricerca che avete menzionato del 2006-2007 è stata pubblicata, è diciamo la base su cui tutti quanti ormai facciamo riferimento per avere dei dati fra virgolette certi, nel senso che quella, come ha detto lei, è stata una ricerca su tutto il territorio nazionale fatta dall'Istat, per cui non è da mettere in discussione quello. D'altra parte, chi lavorava già nei centri antiviolenza da tempo metteva in evidenza che si trattava di un fenomeno molto e molto ampio e soprattutto caratterizzato da una sottostima enorme, perché proprio un fenomeno che non emerge, caratterizzato proprio dal fatto che le donne non si rivolgono a nessuno. La storia di Lucia è emblematica sotto tantissimi punti di vista, proprio per la storia in sé e proprio per i tempi che ha avuto. Sono tutte storie che durano molti anni, iniziano con l'inizio della storia, riguardano molto spesso, coinvolgono sempre, se ci sono, i figli. Le donne non si rivolgono a nessuno perché hanno paura, perché non vedono un futuro, la possibilità di ricostruirsi una vita, perché lui si pente, insomma, tutte le cose che sono state qui ricordate. I dati nostri, noi siamo il centro antiviolenza di Padova, una zona di una città di media grandezza, insistiamo anche su tutta la provincia, e anche la storia del centro di Padova è abbastanza emblematica dei centri italiani. Noi abbiamo iniziato, per darvi un'idea di come cambiano le cose in un territorio, nel 2003 avevamo 38 donne che si erano rivolte al centro antiviolenza, nel 2012 erano 375, ma quest'anno i primi 4 mesi hanno visto 270 persone che si sono rivolte, cioè ad oggi. Questo significa che c'è stato un aumento proprio enorme delle donne che per fortuna si rivolgono. Zantedeschi, sì. mi, a questo punto mi toglie una curiosità, sì. E capisco che forse possa sembrare scollegato, ma forse non lo è. Quanto di questo aumento secondo lei è dovuto, lo so che la mettiamo in mezzo dappertutto la cosa, però forse ci può stare, alla crisi, cioè lo stress correlato da crisi che, come dire, comporta che gli uomini evidentemente diventino più violenti. Guardi, so che insomma detta così è brutta, però No, anche questa è una domanda che ci facciamo anche noi, che ci viene fatta spesso. La cosa, allora, tutto ciò che incide sulla vita delle persone, delle famiglie, poi ha una ricaduta anche sulle relazioni, questo è evidente. Il fatto è che però tutte le situazioni che arrivano ai centri, perlomeno questa è la nostra esperienza, che arrivano ai centri antiviolenza, sono di solito storie antiche, di lunga durata, di anni di maltrattamenti. Può essere, può essere che si sia accentuato. Mi scusi Zantedeschi, la interrompo. Innanzitutto saluto Silvia Cristiani, che è psicologa responsabile dello spazio Uomini Maltrattanti dell'Associazione Il Cerchio delle Relazioni di Genova, perché lei è partita un'iniziativa interessante, non è la sola in Italia a dir la verità, nella quale si iniziano ad accogliere e ad aiutare quelli che potremmo chiamare i pentiti, insomma gli uomini che si rendono conto a un certo punto, o per forza o spontaneamente, sono degli uomini maltrattanti e decidono di farsi curare, di farsi aiutare. Buongiorno Cristiani. Buongiorno. Però prima di sentire lei voglio iniziare a sentire qualche ascoltatore o ascoltatrice nella fattispecie. Luisa da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo portarle la mia esperienza all'interno del matrimonio. Un'esperienza di violenza, ovviamente. Io mi sono sposata nell'85 e sono rimasta sposata per 10 anni. E ricordo che la violenza fisica è iniziata praticamente ancora in viaggio di nozze. Io ero innamoratissima di mio marito e all'inizio sono rimasta talmente meravigliata da questo comportamento che non riuscivo a capire come avrei potuto comportarmi o come avrei potuto reagire. A parte che era difficile reagire perché fisicamente non ce l'avrei fatta. E ricordo che lo giustificavo perché pensavo che avesse dei problemi psichici. Ma quello che ricordo con più orrore è stata la violenza psicologica, perché quella ti distrugge come persona. La violenza fisica ci fa male, ma quella psicologica è ancora più sottile, più profonda. Che tipo di violenza psicologica, Luisa? Praticamente lui mi diceva che io ero una nullità, che se fossi morta il giorno dopo nessuno se ne sarebbe accorto al mondo perché non contavo niente, ed era tutto su questo tono qua. Però mi ricordo anche che quando lui mi picchiava, poi improvvisamente tornava quasi piangente e mi chiedeva scusa. Per cui questo rapporto è andato avanti 10 anni. 10 anni in cui io ho vissuto praticamente un inferno pur continuando a essere innamorata di lui. E alla fine, l'ultima volta che lui mi ha picchiato, mi ricordo che l'ultima volta prima che io lo lasciassi, mi sono guardata allo specchio e mi sono detta, ma è questa la vita che tu vuoi? E mi sono detta no. E da lì ho iniziato a preparare la mia fuga, perché io sono scappata, non è che ho potuto parlarne perché mi avrebbe massacrata ovviamente. E mi ricordo che un giorno sono scappata e lui è arrivato a casa, ovviamente poi mi ha cercato per mare e per monti, ma per fortuna non sono più tornata. Ma nel momento in cui io l'ho lasciato, io mi sono sentita rinascere, liberata. Liberata, sì, non mi sono mai pentita di questo, pur avendolo amato tantissimo e pur continuando ad essere innamorata nel momento in cui lo lasciavo. E questa è una cosa stranissima che ancora oggi non riesco a spiegarmi. Avete figli, Luisa? No, per cui non avevo neanche quel motivo lì per non lasciarlo. Non avevamo neanche figli, eravamo una famiglia molto agiata e quindi problemi proprio non ce n'erano da quel punto di vista lì. E non ha mai avuto sentori prima, come dire, prima del matrimonio? Sì, nel primo matrimonio una volta era successo, noi siamo fidanzati un anno, quindi un periodo molto breve. Ed era successo una volta, ma io non avevo voluto crederci, ci ho detto ma sarà stato uno sbaglio, cioè l'avevo minimizzata la cosa. Poi non era successo con la violenza con cui poi è successo durante il matrimonio. 9 in punto. E veniamo, come si diceva adesso, al lato degli uomini, insomma, perché c'è anche un tentativo di far uscire queste persone del fatto che si rendano conto, e ho ritenuto importante affrontare anche questo aspetto, che si rendano conto di quello che fanno. Saluto appunto di nuovo Silvia Cristiani, psicologa, lo ricordo ancora, responsabile dello spazio Uomini Maltrattanti dell'associazione Il Cerchio delle Relazioni. Allora Cristiani, partirei da quello che sta facendo lei adesso. Quante persone sta trattando? Come sono arrivate da lei? Allora, buongiorno, io in questo periodo sto trattando 5 persone, 4 di loro sono stati inviati dai servizi sociali e uno di loro invece ha telefonato spontaneamente. E quindi rendendosi conto sostanzialmente, no? Una presa di coscienza, sì. Forte, netta. Naturalmente immagino che con questa quinta persona il lavoro sia decisamente più facile, no? Sì, o no? Decisamente più agevole, nel senso che c'è una consapevolezza, c'è una diversità rispetto anche agli altri uomini che sono in percorso e c'è una volontà forte di mettersi in discussione, di modificarsi, quindi sicuramente il lavoro è complesso, però decisamente molto molto più agile. Tutte le storie sono particolari, naturalmente ogni storia è appunto una storia a sé, e però se lei dovesse darci, da persona evidentemente che si occupa del fenomeno, un fattore comune di tutto questo, insomma, un fattore che metta insieme queste storie e anche altre storie, cioè quali sono gli elementi psicologici che scattano nella testa di un uomo. Le dico intanto, se ha accesa la radio, Cristiani, di spegnerla, perché sennò rientra tutto e sente un eco. No, qualcosa, un ritorno strano. Però prego, ci aiuti. Dunque, quello che in modo un po' più generalizzato forse si può dire che accomuna un po' tante situazioni, io di solito mi affido a alcune parole chiave che sono relative alla situazione relazionale, e quindi alcune parole chiave sono potere, sono controllo e sono le dimensioni in cui una coppia normalmente si muove, nel senso che il potere nelle coppie esiste, la suddivisione dei ruoli esiste in tutte le situazioni relazionali, in quelle maltrattanti ovviamente c'è un abuso e un uso spropositato, una sopraffazione, quindi uno spostamento rispetto a una linea di potere sana, come di solito in tutte le realtà di coppia esiste. Quindi una sorta di volontà di controllo, no? Una volontà di dominio. Giusy Fasano, nelle storie che avete raccolto voi, appunto nel libro Questo non è amore, nelle quali ci sono anche storie di uomini, emerge questo, immagino. Sì, anche per noi emerge esattamente questo, e anche a noi gli uomini che abbiamo sentito e raccontato raccontano di quel momento in cui è scattato qualcosa che neanche loro in quel preciso momento capivano, e quindi c'è l'uomo che ci racconta: io le ho messo le mani al collo e però mi sono reso conto soltanto quando stringevo e stringevo, a un certo punto ho avuto la forza di fermarmi ma non so bene nemmeno io come. Oppure c'è la storia vista sempre dal punto di vista degli uomini, degli appartenenti alle forze dell'ordine, i carabinieri, la polizia, perfino i vigili urbani, perfino insomma chiunque abbia a che fare con questo genere di problemi. Sono molto cambiate le cose, adesso sanno molto più di quanto sapessero 10 anni fa come affrontare questo problema, perché non dimentichiamo che spessissimo è successo, purtroppo capita ancora qualche volta, che una donna si sia presentata in caserma, al commissariato o dovunque, e che le sia stato detto: signora, ma guardi, ma non provi a tornare a casa, proviamo a rimediare, cose che dicevano le forze dell'ordine, ma che spesso hanno contribuito, o hanno detto anche le famiglie delle donne, le mamme stesse che molto spesso hanno detto alle loro figlie: ma no, ma vedrai che poi passerà. Quindi è un problema proprio di culturale, cioè bisogna capire da una parte, da parte degli uomini, qual è il disvalore di fare queste cose, e però bisogna anche insegnare ai bambini, partire dalla scuola, cioè avere un progetto un po' più ampio che faccia capire che quella cosa lì non si fa, che quello non è amore come noi scriviamo nel libro e nelle nostre storie. Non può essere amore un ceffone, un divieto qualsiasi, non è possibile. Vorrei chiudere, insomma, donna che viene da una famiglia del mondo del cinema, quindi sa il valore di un minuto e mezzo, che è quanto ci manca a chiudere, Veronica De Laurentiis. Vorrei chiudere con lei perché accanto al libro, appunto, Rivoglio la mia vita, c'è il tentativo di un'opera di sensibilizzazione più ampia, no? Da parte sua. Io vorrei solo dire questo: che l'amore non è possessivo ma generoso, e l'amore non è violento ma è dolce, ed è questa la cosa che dobbiamo capire. Dobbiamo noi donne che abbiamo subito queste violenze imparare ad amare noi stesse. E io sono riuscita, spero di riuscire sempre di più, a trasformare la mia storia in un qualcosa di buono per aiutare gli altri. Abbiamo aperto il primo centro con l'associazione Veronica De Laurentiis a Formia, e all'inizio abbiamo tutti i mesi degli incontri che io faccio anche qui a Los Angeles, per parlare delle violenze, per parlare delle storie, per iniziare un percorso di guarigione. E adesso abbiamo 20-25 donne e hanno tutte denunciato. Io penso che una delle ragioni per cui ci sono tante donne che vanno ai centri e chiedono aiuto è perché l'Italia, le donne hanno cominciato a parlare e a rompere il silenzio, e questo è molto importante. Denunciate, parlate, rompete il silenzio. Grazie a tutti i nostri ospiti, mi spiace di averli fatti parlare poco, ma c'è stato poco tempo. Io prometto che su questo tema torneremo, e soprattutto quando si avvicinerà un eventuale iter di legge, per ragionare anche, ripeto, su questioni come per esempio si diceva, i soldi per i centri antiviolenza, un punto di riferimento fondamentale per le donne. Noi ci sentiamo, se volete, domani con Voto Antonio, se no lunedì con 9 in punto. Un grazie ad Alessandro Marco Tulli in redazione, sempre preziosissimo, Carmelo Lauricella in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia, dunque o domani o lunedì. Ricordati! Mancano 45 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24, la passione. Si sente.